ci vogliamo inserire, vogliamo rompere le scatole fino alla fine. Non dovremmo avere rimpianti di niente, siamo allineati tutti quanti e io sono orgoglioso di essere l'allenatore di questi ragazzi, perché hanno voglia di crescere. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Contenti, finalmente ricomincia il campionato. Auguri. Siamo a 6 punti, non è che siamo a chissà quanto. Noi non abbiamo possibilità di sbagliare. Mi auguro, ecco, che la partita di stasera, come quella di Napoli, ci facciano capire, ci facciano venire quel veleno lì, perché noi quando dobbiamo ammazzare sportivamente avversario, bisogna ammazzarlo. Perdere un trofeo è sempre un qualcosa di pesante, perché ti dà delusione, ti dà amarezza. La situazione è questa, non è che possiamo massacrarci, dobbiamo voltare pagina, dobbiamo pensare subito alle prossime partite. In questo momento abbiamo forte l'attenzione sul campionato, perché sappiamo che per partecipare alla prossima Champions molto probabilmente, anzi sicuramente, dovremo arrivare almeno quarti in campionato, e questo è il nostro grande obiettivo, perché vorremmo un altro anno rigiocarla sperando in condizioni diverse. Dobbiamo rincorrere, non credo che la nostra posizione in classifica rispecchi le nostre qualità. Chi dovrà decidere deciderà, non si decide mai da soli, anch'io deciderò, solamente attenzione in questi 40 giorni di lavoro, perché è troppo importante per noi cercare di finire bene questo campionato. Buongiorno a tutti, oggi Valerio Bernardi in regia con Gianmarco Ferronato, bellissima copertina, grazie. Claudia Schiattone in redazione, Daniele Di Trani qui in assistenza. Quanto mi sono mancati i radio tweet di Pierluigi Pardo? Ciao, ciao Pierino. Eccoci qua. Ma insomma, il radio tweet è ovviamente dedicato all'inchino Kulu, Lukaku. Mi sembra che anche i quotidiani sportivi abbiano dato la giusta enfasi a questa immagine, che ci ricorda ancora per l'ennesima volta che quando parliamo di calcio e di sport in generale parliamo di un fenomeno enorme, che non è soltanto economico, che non è soltanto frivolo, anche se la parte frivola ci piace, siamo curiosi di sapere chi vince il campionato e di molto, tutto il resto, molto. Però è anche uno straordinario veicolo di comunicazione, sì. Nella stragrande maggioranza dei casi anche di cose positive. Bello comunque vedere questa una così grande e intensa partecipazione in prima persona degli sportivi. Mi ha fatto impressione anche vedere Lewis Hamilton in corteo, no? in corteo di protesta. Cioè, forse mai come in questo caso stanno giocando tutti quanti i protagonisti dello sport un ruolo fortemente attivo. Guarda, allargando lievemente il discorso, se c'è un mondo che per sua natura non può essere discriminatorio è proprio quello dello sport. La cosa più bella dello sport è la meritocrazia, è il riconoscimento del merito, del lavoro, del talento, e quindi proprio se chi chiama lo sport, chiama il calcio, non può essere un razzista, questo lo dico proprio con chiarezza. Chi ama lo sport non può discriminare, per stessa definizione la discriminazione è fra chi è più bravo e chi è meno bravo, fra chi si impegna di più e chi si impegna di meno, quindi è tutto molto normale, ma è tutto molto bello. Noi invece discriminiamo chi discrimina. Grande merito anche a Franco Ordine e Fabrizio Biasin, che sono con noi. Ciao ragazzi, eccoci qua. Eccoli qua. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Un motivo in più per amare il ritorno del calcio, perché senza il ritorno del calcio probabilmente non avremmo avuto queste manifestazioni. Sì, un sì. Motivo in più. Sì, cioè, lo aggiungiamo alla lista, Ciccio, è lunga, la lista è lunga. Ma perché soprattutto la lista è lunga di quelli che hanno tentato disperatamente fino all'ultimo di di sabotarlo, di vabbè, far passare tutto per aria. E vabbè, ma con grande piacere noi siamo qui a parlare con Fabrizio Biasin di una domenica sera nerazzurrissima, perché sì, vabbè, l'Atalanta l'hanno semplicemente levata dal congelatore, tutto uguale, no? Quattro pappine. Come se non fosse successo nulla. Proprio. Come se nulla fosse successo. Mentre l'Inter è quella che, ma io e Pierluigi lo diciamo da un po', è quella che più ha guadagnato dall'interruzione per molti aspetti, a partire da Eriksen, per continuare con un primo tempo, quello di ieri, che è stato uno dei più belli della stagione. Ma perché in questi tre mesi Conte ha fatto una cosa alla Conte, cioè un allenatore intelligente che ragiona sul materiale che ha a disposizione e si ripresenta con una nuova impostazione tattica, il 3-4-1-2 che ieri per 60 minuti ha fatto brillare tantissimo Eriksen. E quindi semplicemente secondo me se l'Inter riesce a ritrovare un po' di condizione, perché l'Inter lo gioca al 100% oppure rallenta e fa un po' fatica, però se gioca come i 60 minuti ieri può arrivare veramente molto lontano. E a me dà fastidio, lo devo dire, perché fino all'altro ieri dicevamo Conte è un fallimento, Conte è una delusione, ma Conte di qua. Ma no. No, io me li ricordo i titoli, questi giornali, i commenti, eccetera, eccetera. Dopo l'eliminazione con il Napoli, Conte era una delusione. Ma perché? Conte è una delusione. Perché? Dopo il 2-1 di ieri, Conte da scudetto. Conte da invece è sempre lo stesso. C'è chi considera solo il risultato, che è importante nel calcio, perché non è un dettaglio il risultato. Però nella partita di Napoli c'erano dei segni molto positivi. Certo, e ti dico la verità, certo, che quando ho sentito Conte parlare in quel modo prima della partita con la Samp, ma dopo la partita con Napoli, ho avuto la sensazione che non ero pazzo io, nel senso che in quella partita io ho visto un'ottima Inter, una grande Inter contro Ma hai ragione tu quando dici Italia, che delle quattro in semifinale l'Inter è stata la migliore al di là dei risultati. Sicuramente. Di ieri è stata una conferma. Qual è il tuo elenco, Ciccio? No, l'elenco di tutti quelli che avevano cominciato a dire vabbè, ma con questo Conte dove vogliamo andare, ma perché? E nessuno che avesse avuto, come dire, la brillante idea, come dice Pardo, di per una volta di mettere da parte il risultato e di guardare la prestazione. Ma il lavoro che ha fatto in questi giorni, in queste settimane Conte, è stato questo. Innanzitutto ha detto, io qui c'ho questo asso nella manica. Se lo faccio giocare a intermittenza come è successo, non combino niente. Io adesso devo trovare il modo per inserirlo e soprattutto per capire se questo mi aumenta e mi moltiplica in qualche modo anche la capacità offensiva. E così è stato. L'unica cosa che manca all'appello, devo dire, rispetto a Napoli, ho visto già un altro Lautaro. E soprattutto quello che manca all'appello è un po' la mira di Lukaku, che ne dica Biasin, che sfotte senza conoscere i particolari, è arrivato un po' appesantito. Certo che se è appesantito fa un gol e gioca ieri ha giocato da 6.5 pieno, per quanto scusami, mi riguarda. Ma vuoi parlare del gol? Però guarda, c'è la faccia come noi lucachiani, io sono, ho la tessera numero uno dei lucachiani. Scusami, ma no, la numero uno c'è la Conte. La numero uno c'è la Conte, ma la numero due ce l'hai tu, Conte, eh? Che conta numero più di me. Vabbè, ragazzi, Lukaku, io sapete quello che penso, lo dico da sempre. Ma il gol di ieri non è un gol da incorniciare. Eriksen l'ha messo davanti alla porta e ha detto che ha fatto solo quello ieri. Non ha fatto solo quello. In un'azione in cui gliel'aveva già apparecchiata lui, ma adesso al di là del merito sul gol, io quello che penso è che è chiaramente per caratteristiche fisiche è un giocatore che ci può mettere qualche partita in più a entrare in forma, perché chiaramente non è un brevilineo ecco, no. quindi dai, secondo me è abbastanza normale. Io sono molto, cioè secondo me la prestazione di ieri è già meglio di molte previsioni. Pierluigi, io mi riferivo al dato della bilancia quando è tornato come Conte, io non so questa parola, questa parola è poi ti mando una foto su WhatsApp, ma esatto, Franco, ma voglio dire, questo qua si è allenato in garage, abbiamo visto invece quelle foto lì, insomma è uno che ha quella struttura lì. Certo, mi sembra che se è arrivato un paio di chili in più Conte ci mette un nanosecondo a fargli perdere. Carlo, se gioca certo tutte le partite così io ci metto la firma, se, no, ma tu devi mettere la firma, Fabri, tu devi mettere la firma se, se Lautaro è davvero tornato, perché ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa o dieci giorni fa. A me è piaciuto ieri. Ma a chi non è piaciuto? A chi non a è piaciuto? Ha fatto quel tacco che solo un brasiliano riesce a immaginare, a pensare e a realizzare. A me è piaciuto tantissimo. Sì, ma era quel il grande assente negli ultimi mesi dell'Inter, ne parlavamo certo qualche settimana fa. Non so quanto. Ma Napoli ha capito che doveva cambiare il registro. Anche in questo caso, dopo la partita con il Napoli, molti hanno detto: vedrete che contro la Sampdoria gioca Sanchez perché Lautaro è un caso, un problema. Invece Conte, molto intelligentemente, non si è bruciato Lautaro, lo ha rimesso in campo. Lautaro ha giocato perché, come sa. Questo non significa che poi alla fine ragazzi, non lo sappiamo e vediamo alla fine, ma sicuramente quello giocatore è un attimo. Dicevi, aspetta, Fabrizio, giocando ogni tre giorni tu avrai bisogno di Lautaro e di Sanchez. Ma è ovvio, è ovvio, Franco. No, ma se c'è uno, allora l'affare, se si parla o non si parla, questo lo lasciamo dire agli esperti di mercato e onestamente in questo momento conta poco. Quello che conta è recuperare, e ieri è successo, Lautaro la causa. E io credo che onestamente Conte, se c'è un allenatore che non ha problemi nella gestione dei casi, o comunque insomma se è nella categoria di quelli che non hanno certamente paura dei casi, motivo per il quale io l'ho ripetuto come un mantra in tutta la stagione, penso che la scelta di prendere Lukaku e di sacrificare Icardi sia nata per motivi tattici, essenzialmente tattici, perché io sono sicuro, magari mi sbaglio, che se Conte avesse voluto invece per caratteristiche tattiche legittimamente puntare su Icardi non se ne sarebbe fregato e l'avrebbe risolta lui all'interno dello spogliatoio, non gli manca certamente questa capacità, quindi figurati se ha un problema con Lautaro, che ultimamente in effetti era apparso molto molto così, un po' lontano, no? dalla giusta concentrazione. Ieri hanno lasciato dei segnali molto incoraggianti, anche se secondo me il vero titolo è Eriksen, perché sì, se c'è una piccola cosa invece, questa sì che può essere diciamo imputata a Conte, è stato il fatto che ci ha messo un po' a inserire Eriksen. Questo è oggettivo, questo è cioè, quel periodo gennaio-marzo sicuramente ma l'Inter perché non voleva alterare. Ho capito, ma devi alterare per migliorare, no? Adesso mi sembra che questa pausa, questo mega time out, gli abbia fatto bene dal punto di vista psicologico, perché l'Inter ha scoperto improvvisamente di non essere la squadra in crisi che aveva perso i due scontri diretti con Lazio e Juve, ma di essere una squadra che a meno 12 giornate è a meno 6. Sì, sì. E soprattutto ha dato tempo a Conte di lavorare su Eriksen. No, ma infatti ci ha messo un po', ci ha dormito un po' sopra Conte su Eriksen, e questo è un dato di fatto, Fabrizio, perché no, eravamo il dato di fatto è verissimo, ha ragione Pier da questo punto di vista, però poi di fronte a prestazioni come questa, ma soprattutto secondo me l'atteggiamento del giocatore che è trainante, perché ieri finisce la partita e Eriksen, che è abituato alla Premier e a non nascondersi più di tanto, finisce e dice: siamo qui e proviamo a vincere lo scudetto. Certo. Non si fa grossi problemi, cioè non è il timidone che dice: ho giocato bene una partita, però scusatemi. Ed è il giocatore che ti serve per tenere su anche tutti gli altri. Se lo dice Conte, questa secondo me è l'altra notizia, altra grande notizia degli ultimi giorni dal punto di vista mediatico, cioè che un allenatore storicamente molto prudente in qualche circostanza, insomma, che Conte l'abbiamo visto frenare, pure troppo, l'abbiamo visto criticare, addirittura in certi momenti sembrava, penso al post Dortmund, che criticasse la società, quindi voglio dire, è uno che sicuramente da questo punto di vista è difficile che si sbilanci, l'ha fatto nelle ultime ore perché evidentemente a Napoli e in allenamento, e ieri secondo me per 60 minuti, ha visto una squadra che insomma sta lì, adesso ha un calendario morbido, ha due rivali, una non la conosciamo perché la Lazio aspettiamo di vederla mercoledì, non l'abbiamo ancora vista, l'altra sicuramente in questo momento non sembra una corazzata inaffondabile, poi magari risorgerà a partire da stasera, insomma a meno 12 giornate, a meno 6... Ma chi è che non ci crede, no? Però certo, il fatto che lui lo dica così... No, ma poi è ritornata anche la vecchia dialettica, no? È tornata anche la vecchia dialettica di Conte, il veleno, e ammazzare sportivamente gli avversari. Mi sembra sia un po' tornato dopo quel periodo di massi, ricominciamo, ma che non ci abbiamo tutta sta gioia. Ragazzi, state lì un secondo solo e torniamo subito. Siete veramente un covo di interisti, lo dimostrate tutti i giorni. Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Siamo certamente un covo di interessi, soprattutto Franco Ordine, tutti lo sanno. Sì. Volevo dire, volevo aggiungere questo, che proprio il cambio di registro mi ha molto colpito di Antonio Conte, perché quello che dice prima della partita con la Sampdoria, quando dice ho sensazioni molto positive, sono l'effetto, secondo me, del fatto che lui si è convinto e ha capito che, perché diciamoci la verità, lui gioca a Napoli una partita, il Napoli ha giocato molto meglio con la Juve che contro l'Inter, sì. Lui gioca a Napoli una partita in cui pronti via fa gol e subisce quel popò di contropiede nell'occasione in cui, pur vincendo 1-0, porta avanti le tre torri della difesa per tentare sul calcio d'angolo a pochi minuti dalla fine del primo tempo di fare il gol del 2-0. Questa è la cosa che cambia le carte in tavola all'Inter, Franco, di oggi. Secondo me, non so se sei d'accordo, ma certe dichiarazioni vengono anche dal fatto che Conte si è visto anche le prestazioni della sua avversaria, diciamo, più rinomata, la Juventus, e probabilmente si è reso conto che per una volta anche la Juventus ha dei problemi. Quindi i punti da recuperare in una situazione normale alla Juventus sono difficilissimi. In questa situazione... lui ha puntato, guarda Fabrizio, lui ha puntato tutto sul cambio di modulo, e quindi molto più offensivo rispetto a prima, con Eriksen che tocca la palla in maniera deliziosa. Io non vorrei fare degli accostamenti che possono sembrare audaci, poi dopo lungo la strada ne sentirò tantissimi altri. Però ti dico che lui, da questo punto di vista, ha deciso di fare come giocare a poker. Mette tutto quello che ha davanti. Ma ci mancherebbe altro. Ma scusa, ci mancherebbe altro che non facesse così. Voglio dire. Perché non ha niente da perdere. Bravo, non ha niente da perdere. L'Inter è in una situazione in cui la Champions League dell'anno prossimo è super blindata. Quindi certo. È ovvio che ha uno scenario davanti a sé che può soltanto guardare avanti. E per una volta Pierre non deve neanche incastrare le competizioni europee, perché arrivano dopo, per cui può dare più in campionato. Sì, che è una cosa che non abbiamo detto in questi giorni, secondo me è il grande vantaggio che la Lazio potrebbe aver perso, no? Nel senso che almeno non mi ricordo che... ha perso. Certo, questo sì, però detto questo la Lazio secondo me rimane, vediamo, però insomma sapete come la penso io, a metà marzo davo la Lazio favorita perso. Perché giocava troppo meglio degli avversari. E questo scusami Piero, loro volutamente sono usciti dalla Coppa, perché erano convinti di puntare tutto e di riuscire a vincere il campionato. Adesso quel calcolo non c'è più, perché devono giocare come tutti gli altri tre ogni volte tre alla giorni. Settimana e soprattutto non c'è più l'intermezzo che distrae. Sì, teoricamente però questo dovrebbe essere... la motivazione essere... resta super, e io la Lazio che ho visto da dicembre, adesso... marzo, è che riparte da Bergamo. Vediamo com'è, vediamo com'è. No, ma anche perché fino adesso Pier, abbiamo avuto dalle partite che abbiamo visto, Coppa Italia e queste di campionato, grosso modo delle conferme, no? Compresa quella del Milan orgoglioso ma povero a Torino contro la Juventus, e lì poi lo chiedo a Franco, noi Ibrano parti mi pare, vediamo poi stasera a Lecce. Ma a Torino hai giocato obiettivamente oltre un'ora in 10, quindi sei parziale. Per esempio anche il Verona ha giocato allo stesso livello. Bravo, anche il Verona. Vediamo stasera è una partita che il Milan dove non basta, diciamo, l'orgoglio che Juventus ti aspetti, Pier, portarla a casa. Ma allora, no, io parlavo del Milan, però certo che Juventus mi aspetto una squadra capace di reagire, nel senso che mi sembra che la sconfitta contro il Napoli abbia riportato, come era successo dopo la finale di Supercoppa Italiana persa, dopo la sconfitta di Verona, che io ricordo forse con uno dei passaggi più brutti della stagione della Juve, rimontata dall'Ellas, poi l'Ellas sta giocando in maniera straordinaria, per carità, però insomma mi sembra un altro di quei momenti veramente di snodo della stagione in cui in un modo o nell'altro bisogna trovare una quadra, e quindi... si piacciono, non si piacciono, litigano, non litigano, si vogliono bene, quello che vi pare, qui poi adesso conta anche l'orgoglio dei calciatori. Sì. Al di là del fatto che possano apprezzare più o meno certe scelte, un certo modo di giocare, una certa impostazione, adesso la Juve deve fare il risultato, Pierluigi. Deve conta fare i giocatori, cioè conta proprio il talento dei giocatori, la capacità, esatto, anche di risolvere le situazioni. Ma quindi, poi stasera certo, conta il risultato e basta. Se dovessi giudicare la prestazione dell'altro giorno, beh, insomma, già in assoluto non se la porta da casa. Ma a maggior ragione non se la porta da casa. No, non se la porta da casa. È già la notte degli esami, Franco, per la Juve? Sì, no, è già la notte degli esami, soprattutto perché mi sembra ormai evidente che si sia instaurato a Torino e magari anche fuori un po' dalla cantinanza quel clima molto limaccioso col quale aveva fatto i conti anche Massimiliano Allegri, perché il problema di fondo di questa squadra ormai e di questa società, che per fortuna viaggia secondo una rotta che non dipende assolutamente dagli umori della piazza, almeno fino ad oggi, mi sembra che puntino soprattutto su questo, cioè ogni partita, se c'è il risultato non va bene il gioco, se c'è il gioco non va bene il risultato. Non va bene, no, non fa mai, non va, tra l'altro, bene, non fa mai gol la Juventus. No, però Franco, onestamente, cioè, se penso per esempio invece a Juve-Inter, proprio l'ultima, sì, partita prima della pausa, lì eravamo rimasti colpiti, credo tutti, dalla capacità della reazione della Juve. Ma è bastato lo 0-0 con Napoli per dimenticarlo? Si stanno sommando anche voci che parlano di rapporti, contrasti. In realtà, sono d'accordo con Pierre, dipende poi da quello che succede stasera sul campo, se porti a casa questo la vittoria. No, ma soprattutto c'è una tendenza che magari da oggi verrà cambiata, io non lo so, lo auguro ai tifosi della Juve all'ascolto, però la Juve giocava meglio a ottobre che a febbraio, cioè questa è la verità. La Juve ha cominciato a condurre il campionato tranquillamente, ha perso, se non sbaglio, la prima partita stagionale dell'Olimpico contro la Lazio, rimontata a dicembre, sì, poi ha perso la Supercoppa europea, poi si è incartata a Verona e non riesce a fare il salto di qualità in classifica. Insomma, cioè, questa è una tifoseria ed è una società abituata da 8 anni a dominare. Sì. Ha vinto un paio di scudetti di corto muso, ma tutti gli altri. È anche vero che fin qui, con le spalle al muro, l'Inter ha reagito, e tu ricordavi la partita prima della lunga interruzione contro l'Inter, sembrava una Juventus con le spalle al muro e lì ha reagito, esatto. San Siro aveva reagito. Ed è probabile che succeda la stessa cosa, io lo considero anche probabile. Fabrizio, conoscendo Conte, magari ha affittato l'aria che arriva da Torino e ha detto magari è il momento buono. C'è forse un problema in più rispetto a, non so, la sconfitta di Lione. Lì la Juve torna in campo. In questo momento, dopo 3 mesi, hai una squadra che ha meno certezze anche dal punto di vista fisico. E insomma, si deve un po' sbloccare. Bisogna capire cosa succede stasera. Secondo me stasera è veramente importantissima. Sì, perché sì, se la Juve torna a vincere, poi per me non ha più problemi e torna a fare il suo. Se invece dovessi inciampare minimamente, secondo me saltano i nervi. Sì, Franco, mi fai un radio tweet su Gattuso? Sì, guarda, credo che sia in qualche modo il monumento dell'umiltà e della capacità. Spero che tutti quanti abbiano messo da parte, buttato in un cestino qualunque, quella idea e soprattutto quell'etichetta incredibile e orribile, soltanto grinta e agonismo, perché le sue squadre giocano un calcio che è vero in impostazione, un calcio anche molto difensivo, ma è un calcio fatto di attenzione, dedizione, grande rigore tattico. E io devo dire francamente che dopo averlo visto a Roma, subito dopo la finale, parlare in quel modo, mettendo in silenzio anche Aurelio De Laurentiis, oltre che tutti i giocatori, mi dà l'idea di un uomo che non soltanto è già entrato nella circolazione sanguigna della città, ma è entrato anche nella testa dei suoi giocatori, sì, sì, perché come lo guardavano sembravano tutti che stessero ascoltando l'oracolo. No, ma si è laureato Gattuso con queste due partite di Coppa Italia e con questo tratto, sì, di stagione a Napoli. E il consiglio di comunicazione è sempre lo stesso, premesso che è meravigliosa la sua sincerità, ma insomma il suo standing sta crescendo, quindi senza tirarsela, perché a noi quelli che se lo tirano ci stanno antipatici, senza snaturare se stesso. Però quello che diceva Franco è vero, ma in qualche modo è dovuto anche a uno stile di comunicazione che Ringhio continua a portare avanti, molto appunto molto diretto, sempre il primo nel riconoscere le proprie colpe, qualche volta addirittura esagerando. Questa cosa qui, questo secondo me è una cosa sulla quale, insomma, lo dico da un po' di tempo, poi le vittorie aiutano. Lui deve un filo, non crescere, senza esagerarsi, un po' di poi più. Lo adoriamo così, però un filino, ecco, perché comunque comincia a essere un allenatore veramente strutturato. Anche perché ha dato una dimostrazione di pragmatismo in campo, che è inevitabile. Cioè, ci ha fatto vedere come si batte la Lazio prima, sì, poi sì, la Juve e poi l'Inter, cioè tre squadre superiori al suo Napoli quest'anno, eppure lui, pur essendo di un livello inferiore, ha messo in campo la sua squadra in maniera eccellente. Sì, ha ridato comunque vita a una squadra che non esisteva più, dai. Oltre dimmi, Franco. Napoli, cioè, scusa, ti volo, c'è il Milan dell'anno scorso. Ti avrei voluto far vedere la scena durante i rigori di Napoli-Juventus, la scena in un ristorante di Brera, al tavolo, in uno dei tavoli c'era Adriano Galliani con alcuni suoi amici. Inizia per K al ristorante? Come? Inizia per sì. K. Sì, esatto. sembrava di essere tornati indietro negli anni e di essere ancora a Manchester nel 2003. Addirittura? Sì, giuro! Lo stavano per i bicchieri e i piatti come se fosse la Juventus. Sì, poi non lo so, i milanisti da un lato facevano saltare per aria i piatti di bicchieri, dall'altro lato battevano la testa contro il tavolo, perché secondo me è stato uno degli errori più grandi della storia recente del Milan, quello di mandare via Gattuso. Grazie ragazzi. Certo, grazie ragazzi, grazie a Franco e Fabrizio. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao. Borsa, torniamo subito. Minchia ragazzi, ha vinto 2-1 con la Samp, che lotta per la salvezza. Ha preso un gol alla fine perché non stavano più sulle gambe. Ma di che cosa stiamo parlando? Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Ragazzi, va bene che l'Atalanta non ha lo stesso appeal e lo stesso numero tifosi dell'Inter, ma basta con sto Conte e con sta Inter. Parliamo di Atalanta, parliamo di bel gioco. Una competizione che l'Atalanta ha affrontato per la prima volta nella sua storia e la immaginavamo in un modo completamente diverso, con tutto l'entusiasmo che ci circondava, con delle trasferte magari con tanti bergamaschi in giro per l'Europa. Questa è una competizione che poi sarà completamente diversa. Noi non abbiamo presunzione di essere al livello dei migliori squadroni d'Europa, però in una partita secca speriamo molto di essere, come ho detto altre volte, di essere i più bravi, magari non i più forti. Beh, raccogliamo ovviamente il suggerimento dell'ascoltatore di qui sopra, ma già avevo immaginato in scaletta di parlarne con il mio amico Cristiano Gatti. Ciao Cristiano. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao a tutti. La cui penna preziosissima potete leggere sul portale L'Altro Pensiero insieme a quelle di altri grandi protagonisti del giornalismo italiano. Grande scrittore anche Cristiano Gatti, e gli ultimi 10 mesi di Bergamo meriteranno prima o poi un romanzo. È difficile, servirebbe un Manzoni, caro Carlo, purtroppo al momento le dotazioni sono scarse. Servirebbe davvero Manzoni, come ha fatto già con Messi Sposi, con la peste del 1630, però c'è di bello che, come sempre nella vita, tutto è già stato scritto, no? E sì, devo dire che questo periodo che abbiamo vissuto era descritto perfettamente, bastava cambiare i nomi, le situazioni e le date, e la situazione è veramente, il romanzo di Manzoni era compiuto chissà anche dove, per adesso. Chissà dove l'avrebbe messo Gasperini il Manzoni, eh? Beh, un po' in castigo, non è Don perché, sai, non è Don Abbondio, no. No. Però l'Alessandro era anche un po' bacchettone, per cui magari certe intemperanze non gliele avrebbe perdonate così. Sì, perché Piera ogni tanto parte la brocca al Gasper, anche ieri è espulso su 4-0, dopo quell'intervista famosa di cui abbiamo parlato, non è caso neanche di tornarci sopra di qualche tempo fa, ogni tanto gli parte la brocca. Sì, quando si chiude la vena si dice lui, devo dire che guarda, fa parte della personalità, lui è sicuramente uno che ha un carattere molto acuminato nel bene e nel male, è uno che si assume le sue responsabilità, è coraggioso, non è conformista, non è opportunista, è uno che esatto, gli piace provare, metterci la faccia, rischiare di suo e bla bla bla bla, l'ha sempre fatto. A questo si aggiunge il lato oscuro, che questo suo carattere tante volte è incontenibile. Dark anche, side of Gasp. Tra l'altro devo dire che voglio dire il VAR in questa partita col Sassuolo, devo dire che è stato molto molto troppo pignolo, troppo, perché anche il gol annullato a sì, cioè da dire che l'Atalanta ha rischiato tantissimo nel primo tempo, che Sassuolo è arrivato davanti alla porta un sacco di volte. Che bello sentir parlare di VAR, Pardo, finalmente. Ma no, guarda, ho già ricambiato idea, quello dei giorni. Già, di già! Ma sì, sei un cialtrone, ma hai già cambiato idea. Il VAR è l'incubo dell'arbitro e del telecronista, essenzialmente, ovviamente con due gradazioni ben diverse, però dal punto di vista anche del telecronista non è il massimo. No, io trovo che sia sempre molto difficile intrecciare i piani e quindi fare della retorica, però insomma quello che può fare l'Atalanta in questo momento è sull'umore delle persone, sul senso di ripartenza, sull'orgoglio, sull'identità di una città così straordinaria e così straordinariamente ferita, sì, più di altre, questo esiste. Insomma, ma credi che possa avere Pier, accostamenti perché quando poi ci sono queste tragedie certo, è sempre molto pericoloso. Ma insomma, tu credi che possa avere un peso sulla stagione che deve chiudere l'Atalanta, questa bandiera triste e pesantissima che ha sulle spalle? No, non lo so, ripeto, io penso che quando poi ci sono così tante vittime e una tragedia così grande, che non riguarda ovviamente solo Bergamo, ma riguarda il mondo intero, è sempre pericoloso e quindi anche sbagliato mettere dentro le cose. Però insomma la vita è fatta di ispirazione, poi la vita delle persone che ogni giorno vanno a lavorare, l'orgoglio, l'identità, il sentirsi parte di una comunità di persone, beh, questo c'è, così come c'era la commozione, ci sarà sempre la commozione, così come è stato incredibilmente emozionante raccontare quella sera nel momento più brutto e più difficile Valencia-Atalanta, la partita di ritorno. Sì. E quindi voglio dire, questo fa parte ovviamente della vita, è una squadra di calcio, soprattutto la più grande delle provinciali, no? Si dice così dell'Atalanta, la squadra con più presenza in Serie A tra le città non capoluogo di provincia, insomma è l'unica squadra ovviamente di un certo livello di Bergamo, e rappresenta quindi lo spirito, sì, è lo vero, spirito della città, che è uno spirito onestamente indomabile. Ma vedi, allora Cristiano Gatti, Cristiano ha raccontato le cronache da Bergamo in quei giorni lì, quindi è chiaro che è sbagliato, probabilmente ha ragione Pierluigi, mettere tutto dentro a questo calderone, però è altrettanto vero che è ulteriormente simbolica l'Atalanta in questo momento. Non so quanto possa influire questo sulla squadra e sui giocatori, Cristiano. Ma intanto fammi inchinare di fronte alla saggezza di Pardo, che ha fatto un discorso secondo me sensato, equilibrato, il discorso giusto da fare. Non facciamo la facile che basti una vittoria, una partita, una Champions per cancellare, perché il rischio è questo. Ragazzi, non si scherza, tutti qui abbiamo avuto in famiglia un nonno morto quando non era più giovane, per cui sono cose veramente indimenticabili e insanabili. Pardo ha detto giusto, questa terra ha un certo spirito, abbiamo avuto le nostre colpe, abbiamo fatto i nostri errori, una certa nostra predisposizione a fare, a lavorare sempre a testa bassa ci è costata cara, perché all'inizio abbiamo commesso l'errore di non chiudere e non bisogna nascondercelo, però abbiamo anche il pregio di saper soffrire, incassare, imparare le lezioni e ripartire. da questo punto. Tra l'altro ricordo che per esempio gli stessi tifosi Atalanta, noti per ben altri motivi, però in quella occasione furono tra i primi a dire basta, non riprendiamo neanche più per il campionato, perché un conto è la gioia che provavamo prima e dopo non sarà più lo stesso. Sì. Quindi anche questo è un messaggio secondo me sensato e positivo da questa terra. Comunque più in generale il calcio non deve sentirsi in colpa, non deve vergognarsi di quello che fa, ed è giusto che faccia il calcio, faccia il suo sporco mestiere fino in fondo. È riuscito a ripartire, l'Atalanta si è fatta ritrovare pronta per distribuire un po' di serenità, un po' di gioia, ecco, così con il senso della misura è la cosa giusta. Non diamo all'Atalanta capacità catarchiche, no? di sanare tutto, di dimenticare tutto, perché non è giusto e non può essere così. Serve comunque dire che se Dio vuole siamo riusciti, piano piano stiamo riuscendo a voltare pagina. Certo. È la vita che riprende e l'Atalanta ci sta benissimo. E l'Atalanta che riprende da dove aveva smesso, peraltro, perché sembra che, lo dicevo prima, l'abbiano congelata e poi ora decongelata e rimessa in campo. Fermiamoci un attimo per il traffico, torniamo subito. Se c'è un Dio su questa terra, allora l'Atalanta deve essere campione d'Europa. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Già qui? Ma come hai fatto? Per me ha corso Credit Reform. Non devi più correre dietro il tuo denaro. Ci pensa Credit Reform. È il più veloce, sempre. Oh, ma quanto ha vinto? Ha vinto la fiducia di 170.000 clienti, perché il gruppo Credit Reform è la prima società di recupero crediti del mondo con 550 milioni di euro di fatturato. Un consiglio, verifica la solvibilità del debitore prima di intentare l'azione legale. 800-425-325 o creditreform.it. Convocati. Mi dispiace per Sarri, sinceramente, perché mi sta simpatico, penso anche che sia una bravissima persona, onesto, sincero e molto molto bravo e competente. Però io sono interista e godo come un riccio. Se vince il Bologna, che male, se vince il Bologna. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp vocali, sempre con Cristiano Gatti. Pierluigi, ora Atalanta da Champions mi sembra tanto, no? Come diceva l'ascoltatore prima, possiamo dire che l'Atalanta è la più bella, se non, ma forse non la più forte delle squadre italiane, e credo sia una definizione corretta questa, smentitemi se sbaglio. Poi una cosa che io trovo surreale è addirittura utopistico il Giardino di Gasperini. No, hai visto ieri la partita di Caldara, che per 2 anni al Milan era un ex giocatore? Sì, ma c'è qualcosa nella metodologia di lavoro di Gasperini, nella sua capacità di lavorare con i ragazzi, forse anche nel fatto che probabilmente c'è qualche pressione in meno e una sorta di vento a favore che ti spinge, anche se ormai l'Atalanta è una grande, quindi non è che c'è da discutere su questo, però probabilmente la pressione di un Milan che fatica in questi anni così tanto, al di là degli infortuni, che ovviamente non sarà un dettaglio, ha pesato. No, sul discorso della Champions io credo che sia vero, che le possibilità ci sono, non dico di alzare la coppa, ma insomma di fare un'ottima figura. Fra l'altro, secondo me, questo tipo di formula potrebbe ulteriormente agevolare, perché magari nei 180 minuti certe distanze possono venire fuori, in 90 minuti è meno probabile che vengano fuori. Si può fare la partita della vita, questa squadra è in grado di fare la partita della vita. Sì. In questo momento, cioè, io mi metto nei panni degli avversari, bravo, esatto. Nessuno voglia trovarsela di fronte, no? No, in partita secca, one shot, no, ma non c'è dubbio. Cioè, Cristiano Gatti, stai fermo con le mani, tu, è lui? Non sono io? No, dicevo, dopo che tu dicevi questo, no? L'Atalanta può essere l'underdog. Non mi metto le mani in quel senso. Ma guarda, no, guarda, no, per la superstizione è un peccato mortale, per cui io cerco di evitarlo. No, ma al di là di quello, quando Pardo parlava di Caldara, no, le pressioni che Milano è diversa di Bergamo, così, mi sembra che stia dicendo veramente la cosa essenziale. La stessa Champions, veramente, io non ho bisogno di toccare nulla, perché per me e per tutti i bergamaschi, che l'Atalanta sia già con diritto acquisito sul campo tra le prime 8 squadre d'Europa, è un tale miracolo che siamo, non dico sazi, perché poi l'appetito viene mandando, ma ci pone nella situazione più migliore, no? Perché sei sereno, sei tranquillo, se si perde non è un dramma, per cui si prova a vincere fino in fondo. Poi la famosa storia della partita secca è perché dipende veramente dallo stato d'animo. Se tu affronti la partita secca con l'angoscia di dover vincere per forza un solo risultato utile, altrimenti ti mettono in croce o cominciano a dire che sei un allenatore demente che vai cacciato all'indomani, è ben diverso da poterla invece affrontare. Ed è per questo che Cristiano, che Pardo ha ragione quando dice: non vorrei essere nei panni di chi dovrà giocarsi l'ottavo di finale in partita secca contro l'Atalanta. Guarda, no? vale sempre, secondo me, le parole da scolpire su marmo quest'anno le ha dette Guardiola, che per affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista. Secondo me, io lì sono fermo, e secondo me è l'immagine più illuminante dell'Atalanta. L'Atalanta può anche perdere 5-0 con Manchester, però di sicuro rende la vita terribilmente rognosa a tutti, su questo non c'è dubbio, per cui chiunque si trovi ad affrontarla di sicuro sa che affronta il dentista, se va sulla poltrona, va sulla poltrona, caro mio. Grazie Cristiano, a presto. Ciao. Un saluto a voi. Ciao. Carlo, provincia di Vercelli, ascoltatore, abbiamo un minuto e mezzo, dica. Salve, ascolti, io volevo intervenire in merito a Sarri. Cioè, secondo me a lui è stato richiesto un cambiamento che richiede tempo, è ok. Non sono d'accordo con Pardo quando dice che la Juve ha giocato le partite migliori ad ottobre. Secondo me la partita migliore, che è il punto di arrivo del percorso che ha fatto Sarri, è Juventus-Inter. Se andate a vedere quella formazione... Juventus-Inter è piaciuta, certo. No, perché secondo me, se guardate la formazione, oltre al fatto che c'era Higuaín prima punta, e Ronaldo sappiamo che non piace giocare prima punta, lui ne ha bisogno due davanti o uno, c'era Ramsey al posto di Pjanic. E questo secondo me dà una mentalità diversa alla squadra, e anche agli avversari che incontra Juventus con questo modulo secondo me vanno in difficoltà. Qual è il problema? Che purtroppo poi si è interrotto tutto, sappiamo tutti i motivi, e quindi diciamo che Sarri è stato un po' sfortunato da un certo punto di vista. Sì, la costruzione era fragile, l'interruzione l'ha rovinata. Sì, io parlavo in generale del momento, Juve Inter è stata un'ottima partita, ma se guardiamo il momento, cioè se guardiamo il flusso, no, un periodo di 4-5 partite, sicuramente la Juve sarà più convincente in autunno. Io sono d'accordo con te. Spiega molto dello scetticismo e delle critiche. Anche c'è stato un percorso. Anzi, probabilmente la miglior partita stagionale è quella dell'andata che giocò a San Siro. Era chiaro che era una squadra in costruzione, però lì diede una grande immagine e impronta. Ci sentiamo domani, Pier, sentiamo domani con tutti voi. Io ringrazio Danilo Di Trani, Claudia Schiattone, Valeria Bernardi, Gianmarco Ferronato. Ciao a tutti. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.